appena di ingozzarti come un maiale, rogna! Stanno testando la marijuana su di me. Sono infame chimica. Non sono un infame chimico. Ho detto, sono infame chimica, sai, Frigo. Stavo ragionando su una cosa. Fico, quindi ragioni anche. Che topo fortunato che sono ad averti per amico. Dai, piantala di prendermi per il culo. Io stavo pensando a quel topo lì, Speedy Gonzales. Ma che cazzo c'ha da correre tutto il giorno sto topo con un coperchio in testa? Tutti sti arriba, arriba, arriba, arriba, andale, andale, andale. Take it easy, man. Relax. Sintonizzati sulle frequenze della vita e vivi in pace, fratello. Peace, love and music. Secondo me corre perché gli hanno infilato uno di quei peperoncini messicani superiori. Rogna! Perché devi essere sempre volgare? Noi siamo topi eleganti, siamo la nobiltà dei topi, siamo dei topi dandy e raffinati. Pace, fratello. Senti questa sigarettina, peace, love and music. Cazzo buona! Quest'oggi si parlava di una storica copertina dei Deep Purple 1970 in rock. Forse ci trovavate i Deep Purple che attraversano la strada di fronte al loro studio di registrazione? Ma sa un po' troppo di Abbey Road, no, Beatles. No, Beatles, no, niente, no. Sbagliata. Oppure ipotesi B, sono ritratti come statue greche scolpite nella grezza roccia in rock? No, ci siamo. La soluzione esatta era la C, in rock. Sono i Deep Purple scolpiti al posto delle facce dei presidenti americani sulla Rushmore Mountain, per sottolineare anche il gioco di parole in rock, nel senso nella musica rock, ma anche in rock, nella roccia. E forse anche se il riferimento è più aleatorio, sì, è più oscuro, più sotterraneo, sì, e più subconscio, anche Rushmore, no? La montagna della fretta, del rush. Sì. Chi lo sa, potrebbe anche essere quello. Siamo in tema di citazioni, gliene faccio un'altra. Allora, sì, vogliamo, sì, dimenticarci, rilanci, il mese di marzo del calendario di pane e burro e rock and roll, l'anno della svolta. Allora, ma no, ricordiamolo, la nicchia vincerà il mese di marzo di pane, burro e rock and roll in calendario. Ed eccoli qua, Deep Purple di Speed King, per celebrare in rock l'album che era il soggetto del test attitudinale di quest'oggi. Ultimi 23 minuti in compagnia della diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Buona giornata dall'Ariele a tutti i nuovi e le nuove arrivate, quelli così dell'ultima mezz'ora. Buona giornata anche a voi. Casella di posta elettronica sta male, che si gonfia sempre di più di fotografie del calendario, sì, del calendario, buonanotte, del carnevale di Celle Ligure, del primo raduno surrealista di Pane, Burro e Rock and Roll. Ringrazio Fabio e ringrazio Angelo per i nuovi scatti che arrivano. Vedremo di pubblicarli sul nostro spazio myspace.com/paneburrofm, dove trovate gli interventi del giorno, freschi freschi di giornata di Pane, Burro e Rock and Roll, e appunto abbiamo questa sorta di interazione visiva, pubblichiamo le fotografie, e attualmente campeggia ancora il video di Jerry Phillips, il nuovo eroe di Pane, Burro e Rock and Roll, l'uomo che riesce a suonare con le mani. Ma attenzione, perché nell'ultima mezz'ora accadrà di tutto. Appuntamento con la barzelletta del giorno, se c'è qualche speaker di Radio Nazionali sintonizzati, resta qui che ti diamo la barzelletta anche oggi, dai. E poi il provino per diventare musicisti rock con la bocca, chissà chi ha selezionato la nostra redazione quest'oggi. Di qualcuno di voi che si è iscritto al 335-100-7777. Non perdetevi per nulla al mondo l'ultima parte di PBR. Restate con noi! Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me. Quando si centra l'obiettivo, sì. DJ Ariele, sono tutti lì a copiarti. Ancora questa in storia. In televisione, alla radio, sì. Alla radio, in TV, tutti che copiano cosa le barzellette. Vabbè, ma è la barzelletta. Lo so, ma non si diffondono sui meccanismi. Non vanno a ricercare le rotelline dell'orologio perfetto della comicità. Maestro, lei non l'ho mai vista così contenta di una rubrica di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma sì, perché la comicità recita un cronometro, è sì? Matematica pura. Senta, senta questa facezia, sì, questa barzelletta così ben interpretata dall'allievo Brian. Abbiamo l'intervento dalla regia, è già pronto. L'allievo suo sempre. Sì, il mio allievo preferito, sì. Brian, bravissimo. Un intervento sulla barzelletta di oggi. Ma sì, che poi non c'è la barzelletta, sì, mi scusi, sì, poi non c'è bisogno di spiegarla, è bella in quanto barzelletta lei. Sì, ma certo, però è anche bene sviscerare i meccanismi interni, i contenuti. Andiamo con l'intervento di quest'oggi. Vai Spadino. Ci sono due cammelli nel deserto che dopo miglia e miglia di faticosa corsa, a un certo punto uno dice all'altro: ho tanta sete, e l'altro gli risponde: 88. Lei se la ride sempre di gran lusso. Ma quanto paga Brian il corso? Smetta di ridere. Bravissimo, bravissimo. Il mio allievo preferito. Gli metto subito un ottimo. Di già. Un ottimo, così, un ottimo, un ottimo. Era interpretata bene, secondo ma me. Ma era molto, molto ben costruita. Allora, sì, pensi alla fatica di questi due animali. Sì, cammelli. Che nel deserto, esatto, si prodigano, sudano, certo, danno il massimo. Sì. Eppure hanno voglia di fare un calambur, ma pensi. Torniamo, pensi, sul reparto calambur. Sì, esatto, gioco di parole. Giochi, sì. 87 vuol dire sono assetato, ma l'altro equivoco dice 88. Che non straordinario, ha senso. Straordinario. Sì, sembra un nonsense, sì, ma ha un suo significato. 87, 88. Sì, è un nonsense perfettamente, sì, calibrato. Molto carino. I miei complimenti ancora, Brian. Si sarà divertito anche lei, immagino. Certo, io sì. Ma non la vedevo molto. A me piace questa rubrica sulla barzelletta. Ma è molto divertente. No, era divertentissimo. 87 88. Maestro, a lei e al suo allievo Brian il ringraziamento sentito di Pane, Burro, Rock and Roll. Grazie. Alla prossima, fantastica. Me la rido. 87 88. 88. 89 non avrebbe fatto ridere. No, 89 no. Non era la stessa cosa. 87, 88. 88, esatto. Grazie maestro. Prego. quanto orgoglio c'è nell'annunciare la rubrica del musicista rock con la bocca? Tanterrimo, tanto che anch'io ne sono orgoglione. Da 0 a 5? 15. Io non vedo l'ora di scoprire il provinante di quest'oggi, lei. Che è già al telefono? Penso di sì, dovrebbe chiamarsi Andrea. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao Andrea, buona giornata. Buongiorno a lei, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, tutto allora, bene. Allora, a lezione. Sei già in università? Sì, sì. Ah, un universitario, quanti anni hai, Andrea? 20. Sicuro? Penso di sì. Sì, sì, 20, sì. Potrebbe essere il più giovane dei provinanti per esatto, esatto. E andando avanti con le curiosità, che mestiere fai? Niente, studente. Ah, lo immaginavo. Esatto. Università. Beh, qualcosa per arrotondare non lo fai? No. Camionista, no. Non so, lavori leggeri, il camionista, il macellaio, no, cose per arrotondare. In miniera. In miniera, certo. Esattamente. Certo. In fonderia. Andrea, cosa ti ha spinto alla possibilità di fare il musicista rock con la bocca? Beh, la passione. Sei già un musicista anche vero? Io sono il basso. Il basso. No, Frick, deve farlo lui il provino. Lei non invidia, ci provi. Che invidia, che invidia. Andrea, che brano ci proponi quest'oggi? Io vorrei proporre un brano di mia composizione, del mio gruppo. Fuori il regolamento dei provini. Colpo di scena, guardiamo un attimo. Il notaio, ecco, dice di no, ma io direi di sì. Ma c'è, cioè, sì, un brano tuo? Un attimo, sì. Sì, dai. Sì. In casi, ecco, leggo, ho qui, sì, l'articolo. In casi del tutto eccezionali. Ariel e Frick possono decidere di ammettere il concorrente con un brano originale. Senti, salutiamo allora anche la tua band. Schizofrenia JBL, siamo un gruppo sardo trasferito in continente. Un gruppo sardo trasferito in continente, mi piace molto. Molto interessante. Alla ricerca di un cantante. Aia, c'è Frick qui a disposizione. Va bene. Faccio subito un provino. Il nome della band, tra l'altro, potrebbe andarle bene. JBL cosa significa? Schizofrenia. Qual è il significato della sigla, Andrea? Schizofrenia JBL è un concetto strano, insomma. Solo che non ci stavano il jazz, il blues e l'amore nella sigla. Ah, schizofrenia, jazz, blues and love. Ah, la faccia, eh? Mica male. Interessante. Bello, bello. E che brano volevi proporci della tua formazione? Non so ancora il titolo, però stiamo lavorando. Ci state lavorando, guarda, sì. Andrea, mi sembra veramente un'ottima idea. Agli altri della band l'hai già proposto il pezzo, lo stai proponendo a noi per primi? No, lo hanno già sentito. Quindi, in anteprima, la linea di basso del nuovo brano degli Schizofrenia JBL. Grande. Mi piace molto questa idea. È un'assoluta anteprima. Caro Andrea, ovviamente suonerai il basso con la bocca. Certo. Perfetto. In diretta sulle frequenze di Rock FM, ecco il provino di Andrea. Vai! Virtuoso. Quante note. Aiuto. Questo è un pezzo progresso. Complimenti Andrea. Un applauso. Una sola domanda. Rock and roll. Quante corde aveva il basso con la bocca che stavi suonando? 4. Sei solo velocissimo. Complimenti, era un bravo. Fai lo stesso con lo strumento vero? Ti piace la velocità? Quindi sei un virtuoso dello strumento? È abbastanza. Rimane in testa, eh? Bello, bello. Senza neanche la linea vocale e tutto. Complimenti. Bene, bene. Allora gli rivolgiamo la domanda di rito. Potessimo fare una super band di musicisti con la bocca, tu parteciperesti? Al 100%, ragazzi. Benissimo. Andrea, allora speriamo di sentirci presto, le faremo sapere, grazie di aver partecipato al provino, alla prossima! Grazie, ciao. Complimenti, ciao. Complimenti e buona lezione! Chiusura dolce, chiusura romantica, affidata ai Procolarum. Mancano pochi minuti alle 9 ed è così che arriviamo al termine della puntata 180 di Pane, Burro e Rock and Roll con amore, con passione e sentimento. Saluti a Vispa, saluti a Charlie da Pietrasanta, Nico da Pisa, a Mauro e Jacopo, Daniele, Cristian l'edicolante di Cologno, il dottor Pusceddu, Massimo da Firenze, gli ultimi sms che ho ricevuto e a tutti gli altri che hanno scritto. Volendo ci ritroviamo domani dalle 7 alle 9 qui su Rock FM per Pane, Burro e Rock and Roll. Vi siete persi parti, frammenti della puntata di oggi? Le ritroverete su RadioRockFM.com oppure con tanto di fotografie del primo raduno surrealista myspace.com/paneburrofm, il nostro spazio. Ci si vede lì. Pane, burro e rock and roll, la meglio colazione rock, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. If every good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E come ogni giorno è un piacere augurare la buona giornata al buon Marco Garavelli. Ciao Marco. Ciao, ciao. Devo girarti una mail su, ce l'ho qui da stamattina. È stata mandata qualche giorno fa. Qualche giorno fa. Ad Ariel, sì, venerdì, dopo la puntata di venerdì mi è stata mandata. Ok. Si firma Elia. Scrive: normalmente sono un ascoltatore silente di Pane, Burro e Rock and Roll, non vi ho mai iscritto, ma questa volta arrivo in ritardo al lavoro per ascoltare Zorrock, no, e questo, dai, non mi sarebbe importato, ma nel tragitto sono terribili pensieri, niente più Zorrock, o peggio, con rispetto per Mox, Zorrock non sarà più Don Marco della gara. Infatti, ipotizzando che già ti cambiamo con Mox, esatto. Non so perché, ma scusate, sarebbe come se Batman decidesse di non fare più l'eroe e passare tutto a Robin, o Tex Willer di fare solo il capo indiano e lasciare i cattivi a Kid Willer, oppure come se Baudo lasciasse Sanremo per farlo condurre da Papi. Beh, questo è l'ultimo esempio, non vale, tanto il festival sarebbe comunque da eliminare. Ciao ciao Elisa, ripensateci. Ringrazio Elisa, ma non Elia, ci... scusami, Elia, ma non ci ripenso. Non ci, niente, no, non ci Zorro, ripenso, niente Zorro. Okay. Fermo, sì, ci fermiamo alla seconda puntata. E allora. Due, al numero due. Va bene? No, non va bene. Va bene. Proseguirò la giornata col cuore spezzato, ma ci ripensiamo, Marco. D'accordo. Prendiamo avanti, un po' di tempo. Più avanti. Ciao. Ciao.